zeno, abbiamo anche due viennette. È una meringata. È una meringata. Però le viennette, vabbè, sto a dieta. Le ho prese quello col cacao magro. Che mi faccio pure schifo a pigliare. Faccio pure venire la scompetenza. Comunque, cacao magro. Vabbè, allora. Noi siamo arrivati al punto dell'interpretazione, dove, come vi ho detto, l'interpretazione è una cosa che ha più livelli. C'è l'interpretazione del singolo documento, c'è l'interpretazione del contesto documentale o di testi complessi, c'è l'interpretazione del singolo evento, o comunque c'è una interpretazione più generale. È quello che fa dire a Gadamer che conoscere e interpretare, e che quindi la storia è essenzialmente una scienza ermeneutica. Qui forse conviene una breve puntualizzazione. L'ermeneutica nasce come scienza biblica dell'interpretazione della Bibbia e si basa su un presupposto: l'autore del Sacro Scrittore è Dio, che si è servito di uomini che naturalmente hanno scritto con il linguaggio e i concetti del proprio tempo, ma Dio voleva parlare a tutta l'umanità, non solo a quella del tempo in cui hanno scritto gli autori dei vari testi biblici. Per, come Ranke dice, Dio ha davanti a sé tutta la storia contemporaneamente come unico panorama, vuol parlare a tutti gli uomini. E allora bisogna capire qual è il messaggio che Dio manda agli uomini attraverso il tempo. Quindi un'interpretazione va oltre il livello letterale, un'interpretazione che ogni volta, per certi versi, è nuova, perché si riferisce a uomini di tempi diversi. È questo che ha fatto nascere una scienza, quella ermeneutica, che è appunto il tentativo di leggere il testo, reinterpretandolo continuamente. E Gadamer dice, ma la storia è questo. L'ermeneutica fu un'idea dei romantici, quella di appropriarsi in chiave laica dell'ermeneutica. Leggere un testo storico e interpretarlo, quindi tendenzialmente capire l'autore cosa voleva dire anche oltre la sua epoca, storicizzarlo e nello stesso tempo riportarlo con un dialogo fra passato e presente, riportarlo alla comprensione dell'uomo posteriore che lo legge. Quindi è in questo, ma in questo in realtà c'è un discorso più generale, che è la funzione dello storico. I due grandi paradigmi della modernità sono stati il pensiero scientifico affermato dall'illuminismo e il pensiero storico affermato dal romanticismo, quando c'è la crisi del pensiero illuminista. Sono i due paradigmi su cui si è fondata l'intera modernità europea. E in questo senso lo storico è tendenzialmente un creatore di senso. Quello che si chiede allo storico, in questo senso diciamo, c'è qualcosa di nuovo nella storiografia, diciamo dall'Ottocento in poi, dal grande secolo della storia. Il romanticismo e lo storicismo hanno inventato questo approccio, la storia come creatrice di senso. Superata l'idea della storia laica, della storia sacra, è la storia laica che crea senso, cioè che cerca di estrarre dalla congerie di avvenimenti del passato quello che è significativo e quindi dà senso al tutto. Ora, qui però già si pone un problema. Noi non studiamo il passato, lo storico non studia mai il passato, lo storico studia quella porzione di passato che risponde ai quesiti della sua epoca. Bloch dice che la qualità sovrana dello storico è afferrare il vivente, quindi in qualche modo lo storico interpella il passato nella misura in cui questo è funzionale al suo presente. Qui già si capisce una cosa, che per legare presente e passato non lo si può fare che attraverso la ricostruzione dei nessi causali che legano il passato al presente. Cioè, in qualche modo la storia è spiegazione del presente, quindi è sempre il presente, cosa abbiamo detto un sacco di volte, che interroga il passato nella porzione che gli è utile. Quindi la storia è essenzialmente spiegare prima ancora che narrare. L'ingenuità di Ranke, che in pieno Ottocento, in fondo papà, per quanto credente cattolico, però papà in fondo del positivismo, propone un'idea della storia come storia totale, omnes simul, stanno in, tutto si tiene, tutto sta insieme. Lo storico deve ricostruire tutto il passato e il suo sforzo è semplicemente quello di ricostruire com'è andata. Quindi c'è, lui diceva, come c'è una fisica uguale per tutti, deve esserci una storia uguale per tutti, quindi alla fine una storia ufficiale rispetto alla quale generazioni che vengono possono soltanto aggiungere qui e lì qualche tassello, perché naturalmente è sempre difficile ricostruire il tutto, solo Dio può conoscere la storia nel suo complesso. Però questo naturalmente ha una conseguenza, annulla lo storico all'interno del tutto. La soggettività dello storico non esiste più. Lo storico è soltanto chi deve accertare con un certo metodo come sia andata, cioè raccontare la storia. Ovviamente questa è una cosa molto ingenua, anche perché non considero una cosa, non esiste una storia scritta una volta per tutte, perché appunto abbiamo detto è il presente che interroga la storia. Siccome il presente cambia sempre, cambia anche la storia, cambiano anche le domande che tu fai alla storia. Ecco perché la storia è sempre revisionista. Non esiste una delle ragioni per cui io ritengo una sciocchezza insistere ancora sul filone fascismo, antifascismo, resistenza, Shoah, eccetera, eccetera, è perché questo presente non ha più bisogno di quel passato. Quel passato non è più significativo per il nostro presente. Non è quello il problema che abbiamo davanti. Non c'è nessuna minaccia di marcia su Roma, e se minacce alla libertà si pongono... La Sinella è andata veloce. Chi è? Matteo. La Madonna mia. La Sinella. Sta facendo. È venuto a cavallo. Stavolta sì. Cavallo. Vai, la sedia. Beh, visto che aspettiamo un attimo. Era scattato il coffee. E allora interrompi. Chino non si riesce a fare niente. Si è scimmiata questa foto. Via! Dunque, allora dicevamo, la storia è sempre diversa perché cambia il presente. E in questo senso, cioè, non è un caso che Mommsen scriva la storia di Roma in quel momento, e guarda caso Mommsen scrive la storia di Roma fino alla Repubblica, non scrive l'impero, nonostante abbia avuto tutto il tempo e ovviamente le competenze per poterlo fare, perché Mommsen in quel momento ha un problema: la destabilizzazione della Germania succeduta alla rivoluzione. Ha bisogno in qualche modo, lui spera nell'uomo forte che ridia in qualche modo regola e ordine, un po' come era stato Napoleone con la rivoluzione francese, E infatti idealizza fortemente Giulio Cesare. Cesare è fortemente idealizzato. Lui non ha ancora fatto l'esperienza dell'uomo forte che verrà. Quindi in quel momento lui è interessato a che cosa? Al periodo repubblicano, all'occasione persa con l'uccisione di Cesare. Allo stesso modo in cui la storia dei giovani, quando nasce, nasce dopo ci sono stati i movimenti del 68, movimenti giovanili. Ugualmente la storia delle donne non c'era prima della comparsa dei movimenti femministi, bei tempi. Vabbè, la donna, no, volevo dire la donna, no, volevo dire. Un minuto di silenzio. Quindi in realtà la storia produce quello che in qualche modo gli viene chiesto, la storiografia, quello che gli viene chiesto. Allora nasce così il problema di quale spiegazione storica. Diltai, che in qualche modo porta a compimento il grande disegno storicista, Diltai insieme a Croce e a Droysen è uno dei grandi del pensiero storicista, parte da un'idea, radicalizza al massimo l'opposizione. La storia è nata, la storia moderna è nata in opposizione al pensiero illuminista e dalla sua critica. Quindi in qualche modo la prima cosa è la presa di distanza rispetto al paradigma scientifico affermato dall'illuminismo. Quindi prima di tutto c'è un'irriducibile differenza fra il dato scientifico e il fatto storico. Le due discipline si occupano di due cose ontologicamente diverse. Una è il dato scientifico, le scienze naturali, l'altro è il fatto storico. Esistono quindi due scienze, scienze della natura e scienze dello spirito. Tutto lo storicismo è profondamente idealista. Da questo punto di vista anche Marx, che è certamente un autore materialista, è però fortemente imbevuto di una... Insomma, Hegel non è passato invano neanche per Marx. E se Marx nega l'esistenza dello spirito, ciò non di meno però crede in una serie di cose dello storicismo, come l'idea che la storia abbia un fine e una direzione di marcia. Questo lo eredita da Hegel tendenzialmente. Allora, centrale in questo sforzo qual è? Centrale per capire la spiegazione è l'intenzionalità dell'attore. Questo modello storicistico ha una forte attenzione all'aspetto individuale e pone il centro della sua indagine sulla intenzione dell'attore. Che voleva fare l'attore? Perché Luigi XIV sguarnisce la pressione sull'Olanda proprio nel momento in cui la rivoluzione inglese porterà un Orange sul trono, deponendo gli Stuart, Carlo II. Si rivelerà il maggior errore del suo operato politico. Ma perché? Alcuni avanzano, ma perché lui in realtà non si aspettava quel tipo di evoluzione della situazione in Inghilterra, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe stata una insufficienza di informazione. Quindi tendenzialmente il tentativo qual è? Come si fa a capire le intenzioni dell'autore al di là di quello che lui può averci lasciato scritto o quello che i testimoni del tempo hanno detto? Col metodo dell'empatia, cercando di entrare nella sua testa, di ripetere in qualche modo. Allora ecco, lo storico deve ricreare le condizioni precise, il più possibile, di quando è avvenuta quella presa di decisione, perché come ogni idealismo è centrale il soggetto. Ogni idealismo è sempre fortemente soggettivo, e allora il problema è ricostruire le condizioni ma capire le intenzioni del soggetto agente. Come? Attraverso il metodo dell'empatia. In realtà l'empatia permetterebbe in questo modo di penetrare in quel mondo e in quel modo di pensare a un certo punto ci sarà quella che lo stesso Diltai chiama l'illuminazione, che permetterà con un colpo di vedere. A me sta storia dell'illuminazione è sempre stata entrata una cosa da stregoni di laccio, tendenzialmente la luna nera, non sono mai riuscito a prendere troppo sul serio né Diltai né chi come il mio amico Alceo Riosa tentava furiosamente di dire no, di ma Alceo, ma non so, l'illuminazione, la cosa, la sfera, l'Enel non funziona, la sfera. Ora, il metodo della empatia può essere un utile espediente per lo storico, attenzione, ma non è un metodo esaustivo e soddisfacente. Può essere interessante perché ti permette di capire un modo di pensare e quindi di spiegarti perché. Io ho capito molte cose, adesso non ho cominciato con le solite battute che vi do mazzate, ho capito molte cose del modo di fare dei fascisti, eccetera, ascoltando le loro canzoni. Perché lì capisci tutto un modo di pensare, capisci un modo di sentire, di ragionare o di sragionare, vabbè, quello che è quello che ti permette di capire il perché poi c'è una gioventù che va a cercare la bella morte, come dice Mazzantini, con la Repubblica Sociale che chiaramente aveva già perso, cioè, la possibilità che le potenze della potenza, quello che rimaneva dell'asse, potesse vincere la guerra nel settembre del 43. Solo i più cretini e i più fanatici potevano crederci, ma era evidente che quello era un tentativo disperato, perdente. Però trovo una sua giustificazione in quel modo di sentire, in quel particolare pathos che tu cogli in quella maniera. Ok, è un espediente storico, utile, stop. Non puoi creare una spiegazione sulla base di questo. È un segnale, ti può dare una traccia di ricerca, non è quella la spiegazione in sé. Peraltro, anche se noi riuscissimo a capire veramente, a parte il fatto che, come sempre quando ci si muove sul terreno della psicologia, è un terreno maledettamente scivoloso, dove la possibilità di verificare, falsificare l'affermazione nulla che facciamo, chiediamo al cadavere di Napoleone perché ha attaccato la Russia nel 1812, qualcuno sostiene che lui l'ha fatto perché doveva difendere in qualche modo l'autonomia della Polonia, a questo punto dice scusa, perché gliene fotteva la Polonia, perché si voleva scopare la Maria Valesca. Ok, può anche essere, ma bello voglio. Cosa ci aggiunge questo a noi? Perché Hitler attacca la Russia prima ancora di aver vinto con l'Inghilterra, ripetendo quello che era l'errore che lui aveva sempre criticato nella conduzione della prima guerra mondiale, la guerra su due fronti? Perché lo ripete? Ci sono varie spiegazioni, c'è chi pensa che lì il calcolo era che tanto sostanzialmente la guerra sull'altro fronte non c'era perché l'Inghilterra non era in grado di sbarcare, quindi c'è un errore di calcolo nel non prevedere l'entrata in guerra degli Stati Uniti che avrebbe reso possibile lo sbarco in Normandia e quindi la guerra su due fronti. C'è chi dice no, è il servizio segreto inglese che è riuscito abilmente a creare una situazione per la quale lui era convinto che i russi stessero per attaccarlo e quindi decide di giocare d'anticipo. C'è chi dice no, in realtà lui aveva delle informazioni sbagliate che gli venivano dall'interno stesso del regime, che dicevano che il regime comunista in URSS non aveva nessun consenso, che era, la Russia era un aggregato semibarbaro, e appunto lui dirà basterà tirare un calcio alla porta e crollerà tutta la struttura fatiscente, quindi una sottovalutazione dell'avversario. Va bene, ma alla fine se anche noi riuscissimo a sapere con esattezza il perché delle intenzioni di Hitler, questo non risolverebbe il problema nostro di capire nel complesso l'andamento della Seconda Guerra Mondiale o in particolare della Guerra di Russia, poi ci sono tanti altri aspetti. In realtà resterebbe ancora aperto per noi un mucchio di altre cose. Sì, magari se riuscissimo a scoprire che veramente è stato il servizio segreto inglese ad infinocchiarlo, magari questo ci farebbe capire un po' meglio il ruolo, la potenza, lo sviluppo dei servizi di intelligence già nella Seconda Guerra Mondiale. Ci darebbe qualche indicazione di questo, però non molto più di questo. Se è stato un errore di Hitler o se è stato un rame sui fili del cervello, dal punto di vista poi della storia cambia poco. Quello che è avvenuto è questo, e bisogna capire quali sono le conseguenze di tutto questo. E le cause sicuramente non possono essere ricondotte solo all'errore individuale. Quindi alla fine, se anche noi riuscissimo a fare questa operazione, sarebbe un tassello probabilmente, ma neanche dei più grandi, un tassello abbastanza piccolo del mosaico che dobbiamo ricostruire. Lo storicismo sostanzialmente basa la sua totale ripulsa delle scienze naturali e la pretesa di una specificità delle scienze dello spirito e in particolare della storia come scienza dello spirito totalmente altra rispetto alle scienze della natura sulla base di alcuni luoghi comuni. Primo, lo storico non è separabile dall'oggetto della sua indagine, quindi viene meno il presupposto fondamentale delle scienze naturali, che postulano la totale separatezza dell'osservatore dall'oggetto osservato. Lo scienziato è totalmente altro rispetto all'oggetto che studia. Siamo sicuri? Ma allora le neuroscienze come le spieghiamo? Eppure il cervello è l'unica cosa che studia il cervello. Come si fa a distinguere l'oggetto cervello da chi lo studia? C'è chi studia coi piedi, ma insomma non è quello che dà i migliori risultati. Seconda cosa, l'irripetibilità dell'avvenimento storico, per cui mentre nelle scienze della natura l'avvenimento si ripete ciclicamente, le stagioni, il giro della Terra intorno al Sole e quindi di conseguenza il ciclo della natura, dei vegetali, e così via, si ripetono costantemente. La storia invece è fatta di avvenimenti unici e ripetibili. Sì, però pensiamoci bene, anche nella natura gli avvenimenti sono unici e ripetibili. Certo, il modo di fare le uova delle galline è sempre lo stesso, ma la gallina è quella gallina, con quelle caratteristiche sue, individuali, e ogni uovo che fa lo fa in un momento diverso della sua vita. Quindi ogni avvenimento anche delle scienze naturali in sé, per quanto a noi possa essere diciamo scarsamente interessante andare a indagare sulle differenze fra galline o fra l'uovo di oggi e l'uovo di ieri, di fatto però sia pure minimamente ogni singolo fatto, anche naturale, è diverso dagli altri. Ma, altra cosa che, su cui gli storicisti insistono, la storia non è una scienza sperimentale, mentre le scienze naturali sono sperimentali. E sono scienze proprio perché sperimentali, perché possono verificare all'infinito le loro leggi ripetendo all'infinito un esperimento. E però allora l'astronomia non è una scienza, perché no, esperimenti di astronomia mi pare che non si riescano a fare. Anche la geologia, guardate, oltre certi limiti, non è esattamente una scienza sperimentale. E così via. Ma se ci fate caso, anche la medicina e la biologia di per sé scienze sperimentali lo sono fino a un certo punto, perché ci sono cose che tu postuli senza poter sperimentare, o perlomeno non per ora. Quindi in realtà anche il carattere sperimentale non è proprio così necessariamente fondante delle scienze naturali, anche se certamente le scienze naturali hanno un carattere sperimentale ben maggiore della storia. D'altro canto, dice Popper, ma in fondo anche noi facciamo continuamente esperimenti. Quando variamo una nuova costituzione o un nuovo codice civile, o più semplicemente apriamo un negozio, sono tutti esperimenti che facciamo. Alcuni vanno, altri non vanno, ma alla fine nella vita sociale, in questa specie di biologia sociale, ci sono tanti esperimenti esattamente come. Quindi in realtà anche questo non sarebbe un criterio proprio di per sé. Ma soprattutto c'è un punto del conflitto che svilupperemo dopo, il problema della libertà umana, che è quello che rende tutti gli storicisti ostilissimi a un approccio di tipo, è l'atteggiamento dei nostri docenti che quando sentono parlare di certe cose si irrigidiscono, perché il problema è quello della libertà, eccetera, eccetera. In realtà però, se ci fate caso, ogni storico tenta sempre delle spiegazioni, anche se magari non le esplicita. Se uno dice che la caduta tendenziale del saggio di profitto verificatasi nella seconda metà dell'Ottocento, eccetera, eccetera, produsse... sta dicendo che appunto esiste una legge che è quella della caduta tendenziale del saggio di profitto, quello che dice Marx. Una legge che poi per certi versi secondo me viene falsificata, ed è proprio questa crisi a falsificarla, però alla fine per un po' di tempo è riuscita a spiegare delle cose. Se io dico che a Stalingrado Hitler perde perché non fa ritirare in tempo la sesta armata, sto automaticamente dicendo che se l'avesse fatta ritirare, e quindi in realtà la spiegazione della catastrofe è la sua inutile ostinazione. Potrei fare 10.000 altri esempi, ma gli storici continuamente tentano spiegazioni, il più delle volte buttate là senza eccessiva esplicitazione del perché sarebbe andata così, viene dato abbastanza per scontato. D'altronde, come vedremo, le leggi di tipo sociale del comportamento sono spesso dei truismi che noi non ci fermiamo ad esplicitare. Se una persona riceve una pallottola in piena testa, muore. È abbastanza scontato, non lo stai a dire, quindi dai per scontato per esempio una certa perizia fatta in un processo, no? A tutto questo reagisce il tentativo positivista, che è quello di scuola positivista, che si condenserà nel tentativo di Popper-Hempel basato sulle leggi di copertura, il modello nomologico deduttivo, o se preferite nomologico inferenziale. Il ragionamento qual è? Il ragionamento è, sentite, storia, fatto o dato, storia o scienze della natura, il ragionamento scientifico è sempre lo stesso. L'idea è, esiste un explanandum, cioè qualcosa che va spiegato, un fatto che indichiamo nella formula con la E. Questo fatto alla fine si spiega sempre col nesso fra due cose: i dati iniziali C1, C2, C3, C4 e delle leggi generali di copertura L1, L2, L3, L4. Facciamo un esempio che fa Popper. Lui dice, ma se noi diciamo questo filo che ha una portata, una resistenza fino a mezzo chilo, è stato spezzato è perché ci si è messo un peso di un chilo. Allora, c'è una premessa generale, cioè che il filo in questione, cioè qualsiasi filo ha una sua capacità di resistenza legata a certe cose, alla consistenza del materiale, allo spessore, eccetera, eccetera. Poi ci sono due condizioni specifiche di partenza: che questo filo regge mezzo chilo e che noi gli abbiamo messo un chilo. Di conseguenza, tutte le volte che noi metteremo un peso eccedente il mezzo chilo, il filo che ha come portata massima mezzo chilo si spezzerà. Questo è lo schema base. Dunque, le regole, che si tratti di fisica, che si tratti di storia, sono le stesse. Non si può ragionare, non si dà spiegazione se non ci sono leggi di copertura. E se non c'è una legge in base alla quale un dato, una data causa avrà un certo effetto, che a sua volta produrrà ulteriori effetti, non si capisce perché dovrebbe succedere. Succede perché esistono queste leggi di copertura. Dunque il modello è nomologico, perché appunto si basa su leggi di copertura, e deduttivo, non induttivo. Popper ammette anche un mezzo induttivo, però diciamo marginalmente, e gli dà caratteristiche diverse. Il suo modello è essenzialmente nomologico deduttivo, è a partire da queste leggi che noi deduciamo la spiegazione. Per Popper poi inoltre c'è un problema: una legge, una qualsiasi affermazione scientifica non è possibile verificarla, è solo possibile falsificarla. La natura, secondo Popper, non dà mai risposte, non dice mai di sì a una teoria scientifica, al massimo dice di no. Noi affermiamo che tutti i corvi sono neri, e vedendo altri corvi che sono neri rafforzeremo questa nostra convinzione, ma questo aumenta solo la probabilità che sia vero, non esclude in assoluto che un giorno non possiamo trovare un corvo bianco. Nel momento in cui trovassimo un corvo bianco, la nostra affermazione risulterebbe falsificata. D'altronde lo stesso Popper dice che siccome nulla può durare all'infinito, qualsiasi affermazione, anche scientifica, è destinata ad essere smentita nel tempo. Quindi, perciò lui parla di scienza su palafitte, di verità provvisorie sempre. Distingue in questo senso due cose: leggi ineccepibili e leggi probabilistiche. Le leggi ineccepibili sono quelle che non hanno eccezioni, appunto, ineccepibili, che non hanno eccezioni. Le leggi probabilistiche sono quelle che invece dicono che nella maggior parte dei casi avrai questo risultato, però è possibile che ce ne sia anche un altro. Allora, su tutto questo Popper sostanzialmente introduce una differenza sostanziale fra il contesto della scoperta e il contesto della giustificazione. Cioè, il contesto della scoperta è come ti viene un'idea, e lui dice: non esiste un metodo per farsi venire un'idea, è una cosa totalmente anarchica, dipende. A un certo, anche lui se ne esce con l'illuminazione, cioè a un certo punto c'è la lampadina che si accende. Non c'è un metodo per farsi venire un'idea. In compenso, io conosco molti metodi per non farsene venire. Per esempio, andare a sentire Grauber è un'idea, è così ammorbante che ti passa. Quindi lui dice: il momento dell'ideazione è un momento totalmente sganciato dal metodo. Col metodo ha a che fare il momento della giustificazione, cioè quando andrai cercando tutte le possibilità che possano smentire la tua ipotesi. In realtà per Popper la cosa procede sempre così: problemi, teorie, critiche, congetture, confutazione. Cioè sorge un problema, cerchiamo di dargli una risposta, un problema che può essere di natura teoretica o di natura pratica, questo è assolutamente rilevante. cerchiamo di dargli una risposta. A un certo punto ci sembra di averla data, ci costruiamo su una teoria che sicuramente riceverà una serie di confutazioni, una serie di critiche, fino a quando le critiche e le confutazioni non riusciranno a falsificare quella teoria avrà vigenza, verrà ritenuta valida. Questo vale anche per la storia. Le leggi di copertura servono anche nelle scienze sociali. Però il modello di Popper e di Hempel è sicuramente scientificamente molto più fondato dell'altro, è sicuramente molto più rigoroso e meno arcaico, però ha una serie di limiti. Per esempio, la stessa idea di falsificazionismo, beh, insomma, convince fino a un certo punto, perché se è vero che noi non sappiamo se un giorno troveremo un corvo bianco, è però vero, e noi tutti, insomma, non siamo disposti ad ammettere neanche teoricamente un'ipotesi. In un altro caso, una donna incinta partorirà un essere umano o abortirà, tertium non datur, fino a quando un giorno una donna non partorirà un'ameba. Sì, ti riferisci al caso di Bersani, però poi si è approfondita l'analisi, è un essere umano anche lui, però, e quindi è stata smentita la cosa. Mi mancava la smentita. Scusa, un'ansa, Ciro è a casa. Ah. E tra poco parte. Bravo, questo va tutto bene. Comunica la pausa. Sì, sì, sì, è grande. Ora non tanto, io vivo per Ciro, però. Ah, giusto. Tiraiola. Sei unico. Cioè, sei vivo. Allora. Sta bene l'altissima donna. In realtà, che una donna non partorisca un cavallo, beh, non è solo una cosa, diciamo che è abbastanza sicuro, perché ci sono una serie di cose che noi sappiamo, la barriera di specie, che ci portano a ritenere sicura questa. Ma potrebbe determinarsi una modificazione tale per cui, ad esempio, una delle leggi che noi riteniamo sicure non è più vera. Prigogine, con la freccia del tempo, dice: neanche le leggi naturali sono eterne, hanno una loro durata nel tempo, perché anche l'ambiente naturale cambia. E quindi, ad esempio, quello che ieri era impensabile, cioè che un oggetto lasciato a sé stante potesse rimanere a mezz'aria, invece nel momento in cui dovesse cambiare il campo gravitazionale potrebbe darsi, già, ma dovrebbe cambiare il campo gravitazionale, mentre a parità di ogni altra condizione, cioè di stabilità del campo gravitazionale, ogni corpo lasciato a sé stante continuerà a cadere. Quindi in realtà il falsificazionismo è una posizione un po' estrema. Ci sono cose che noi sappiamo con una certa sicurezza, poi se dovesse cambiare il campo gravitazionale, dovesse il Sole mettersi a girare attorno alla Terra e Bersani dire una cosa sensata, può succedere, non lo so, ma fino a quando questi eventi non si produrranno, cioè, loro non ammettono le leggi universali per niente. Loro dicono le leggi universali sono tali nella misura in cui non sono falsificate. Anche il giorno, anche il giorno della notte, capito, ma è una posizione, secondo me, un po' troppo radicale. Una seconda obiezione che io mi sento di fare la risposta dell'uomo comune, ma mentre le leggi di copertura della natura noi ne abbiamo una certa quantità, dalla legge gravitazionale, per carità, e nel caso delle scienze sociali, delle scienze umane, è molto più problematico determinarle. Prima di tutto, quali e quante sono? Perché sai, io per stabilire che ogni corpo lasciato a sé stante cade, alla fine ho bisogno di un solo dato, un corpo che lascio e vedo se cade. Relativamente a quell'esperimento non ho bisogno di altre leggi di copertura. Gli eventi sociali invece, per loro natura, sono straordinariamente complessi e investono un numero infinito di, cioè se la mettiamo sul piano del comporre leggi di comportamento sociale attraverso la combinazione di leggi di comportamento semplice di carattere naturale, e ci troviamo in presenza di un tale numero di leggi di comportamento naturale da essere praticamente impossibile determinare una cosa del genere. Cioè, come faccio a dire le crisi economiche, per certe cose ci arrivo a senso, se presti soldi a cazzo di cane finirai di culo per terra, mi sembra un'affermazione di buon senso che spiega le crisi finanziarie, fino a quando, per carità, il falsificazionismo dimostrerà che invece prestando soldi a cazzo di cane fai tanti di quei soldi che proprio, e vabbè. In realtà nel comportamento sociale le leggi di copertura è molto più difficile stabilirle, ma si dice lo storico non è un produttore, è un consumatore di leggi di copertura, quindi le prende da altre discipline, la sociologia, l'economia, il diritto nel caso, la politologia, eccetera eccetera, cioè la demografia, eccetera eccetera, psicologia, la psicanalisi, eccetera. Sì, solo che in buona parte di queste leggi sono state ricavate a loro volta dalla storia. Ad esempio la sociologia ha una fondazione tutta storica. In realtà c'è un unico modo molto approssimativo, ed è bene esserne coscienti, che è quello della comparazione, non dell'analogia, della comparazione. Cioè, non potendo noi sperimentare alcune leggi di comportamento sociale, possiamo osservare il maggior numero di casi possibili dove con un processo di, come dire, smontaggio, applicando la clausola del ceteribus paribus, per cui scorporiamo una possibile causa alla volta, riusciamo a capire più o meno certe regolarità di comportamento. Guardate che sto usando volontariamente la parola regolarità più che leggi, perché ha un carattere meno stringente, cioè sposta l'attenzione dal campo delle leggi ineccepibili a quello delle leggi probabilistiche, anche perché di casi noi non ne abbiamo infiniti, non ne abbiamo tantissimi, la comparazione di solito si fa sempre su un numero abbastanza ridotto di casi, quindi è per approssimazione che possiamo avvicinarci. Quindi l'individuazione nei processi storici e leggi di copertura è necessariamente una, diciamo, individuazione parziale, fallibile, per certi versi anche piuttosto grezza. Alla fine lo storico si assume la responsabilità, è giusto che al limite lo storico ne renda conto, ma alla fine lo storico assume su di sé la responsabilità di aver scelto un certo metro di giudizio e quindi certe leggi di copertura piuttosto che altre. Lo schema rimane uguale, però sicuramente, ed è stranamente come questo sia uno degli aspetti meno osservati del dibattito. Il dibattito si è centralizzato sul problema della libertà umana, ma invece questo aspetto che sì, vabbè, ma quali sono queste leggi di copertura e come me le invento, è una delle cose che, vabbè, è rimasta nei limiti, viene risolta con la discrezionalità dello storico. Detto questo, però, ovviamente questo un pochino indebolisce lo statuto scientifico della disciplina, che non è come la fisica, insomma, un po' difficile fare una formula. Per di più, io devo tenere presente il peso della casualità e le leggi della complessità. Questa è una cosa che manca nel modello di Popper e Dempel, perché spesso non è la singola causa, ma la combinazione di una serie di cause a produrre un effetto che talvolta può essere totalmente controintuitivo. Altre volte il problema può essere dato dalla presenza di una forte casualità. Non è la stessa cosa se un certo fatto si verifica in un momento anziché in un altro. Se gli stati generali non fossero avvenuti nel maggio dell'89, ma solo 2 anni prima, probabilmente l'evoluzione della storia francese sarebbe stata molto diversa. Quindi, inoltre, questo modello, pur essendo scientificamente molto piazzato, però è fortemente astratto e vi aiuta poco nella scrittura, perché difficilmente voi starete a ricostruire volta per volta ogni singola legge di copertura che può spiegare l'evento storico che voi state trattando. Più delle volte questo verrà tacitamente sottinteso, o ci si risolverà la cosa sul piano del buon senso anche, e più che altro sull'ordinamento logico del paradigma esplicativo. Però, ciò nonostante, questa riflessione non è affatto inutile, perché è se voi, anziché scrivere un libro, doveste fare un modello di simulazione, e le leggi di copertura servono, perché se mentre tu scrivi una serie di leggi di copertura, anche i truismi per carità, ce li hai in testa e non ci stai neanche a pensare, è automatico, e invece il computer non ce l'ha in testa, se non glielo metti tu, quello non capisce. Quindi, per esempio, questo schema può avere una sua utilità, a condizione di essere utilizzato come scomponendo quesiti complessi in quesiti semplici. Quindi l'albero esplicativo richiede una notevole articolazione. Però, e veniamo al problema centrale, quello della libertà umana. Allora, se la storia è una serie di, è una treccia di causa ed effetto, che fine fa la libertà umana? La decisione umana è in grado di interrompere o deviare la catena causa-effetto? Qui ci sono diverse risposte possibili. Una prima risposta è quella che darebbe Lamberto. No, forse Lamberto sarebbe la terza. La decisione umana è assolutamente irrilevante ai fini del processo. Quello che fai, fai, il processo va avanti lo stesso. Seconda ipotesi, la decisione umana è inevitabilmente, non è, come dire, ininfluente, ma è necessitata e condizionata da una serie di azioni e reazioni, per cui quello che tu fai è decisivo, fa parte della catena causa-effetto, ma a sua volta è determinato, quindi non sei in realtà libero. Poi, come diceva Spinoza, se un sasso lanciato potesse pensare, penserebbe di star volando per libero arbitrio. È un po' la posizione di Spinoza, quella che si ripete in questo senso. Altra affermazione: ogni singolo essere umano è effettivamente libero di decidere quello che gli pare, ma noi possiamo prevedere con certezza quale sarà il comportamento medio con discostamenti minimi. Questa sarebbe la risposta di Umberto. Io non so se tua sorella farà un figlio, ma so con esattezza quanti bambini nasceranno in Italia fra 3 anni. Una certa porzione di donne non faranno figli, un'altra porzione li farà più o meno e con scarti minimi, io posso prevedere con esattezza quale sarà il trend demografico. Quarta affermazione, la decisione umana può avere degli effetti, ma solo eccezionalmente e o marginalmente. Eccezionalmente quando, come nelle scienze fisiche, nella scienza della complessità, si dice che sei in una situazione bilico, per cui anche un piccolissimo spostamento da una parte o dall'altra può decidere se la palla rotola su un fianco o sull'altro. Oppure può modificare e modifica i rapporti causa-effetto, ma solo per aspetti marginali, non rilevanti. In realtà nessuno di questi casi spiegherebbe una serie di eventi storici. La battaglia di Austerlitz è andata così perché doveva andare così o perché Napoleone decide di lasciare in mano agli austro-russi l'altura contro ogni regola del pensiero militare, per attirarli poi in una gigantesca tenaglia che li distruggerà. Certo, potremmo anche però fare un'altra ipotesi. Questo è avvenuto perché il generale che era dall'altra parte cade nella trappola e fa scendere i suoi uomini dall'altura, mandandoli all'attacco verso i francesi e quindi imbottigliandoli. E se non ci fosse caduto? Come sarebbe andata la battaglia di Austerlitz? Clausewitz, per esempio, dice che il campo di battaglia, la guerra, è il campo dell'imprevedibile. In realtà, sì, previsioni si possono fare, ma tornando al problema della molteplicità delle leggi di copertura, se noi dovessimo disaggregare ogni in cause semplici, una battaglia per esempio ha aspetti balistici, ha aspetti psicologici, ha aspetti legati al clima meteorologici, ha aspetti legati alla conformazione del terreno, aspetti orografici, ha aspetti anche minimi, ad esempio in qualche caso può incidere la divisa dei soldati. L'ostinazione dei generali francesi emerite teste di cazzo nella prima guerra mondiale nel difendere i pantaloni rossi dell'esercito, perché i pantaloni rossi erano il cuore dell'armée, rese i francesi enormemente più vulnerabili al tiro dei cecchini. Come vedete, anche un particolare, se volete in sé non significativo, come i colori dei pantaloni di un esercito, è una delle cose, non solo, ma una battaglia sì, ha un disegno d'insieme, ma poi è fatta anche di una serie di combattimenti individuali. Dovremmo scomporre tutto questo, e quando anche l'avessimo scomposto e fatto tutto sto casino, questo ci dice che la battaglia di Austerlitz doveva andare in quel modo piuttosto che in quell'altro? Quanto c'entra il piano di battaglia di Napoleone e quanto c'entra l'errore del suo avversario? In realtà il modello esplicativo nomologico deduttivo di Hempel e di Popper si presta abbastanza bene per individuare le tendenze, ma spiega male gli eventi. Certo, anche lì intendiamoci, ci sono delle leggi di copertura, è evidente che le leggi balistiche spiegheranno perché a Mentana i garibaldini sono fatti a pezzi dai francesi che hanno gli chassepot, hanno fucili diversi, che quindi hanno una prestazione. Quindi la differenza fra i due armamenti risulterà decisiva. A Gettysburg le armi a ripetizione dei nordisti faranno la differenza, stroncando ogni tentativo della cavalleria sudista su una pianura abbastanza vasta e non coperta, per cui esposti a un fuoco a ripetizione. Certo, queste leggi di copertura ci sono, ma si può ridurre una battaglia a questo? Si può ridurre una vittoria in una campagna elettorale piuttosto che un'altra, ad esempio, alla quantità di denaro speso per la propaganda elettorale? Anche lì è ovvio che chi ha più mezzi per fare propaganda è avvantaggiato rispetto a chi ce n'ha di meno, ça va sans dire. È anche giusto che quello che azzecca lo slogan ha un vantaggio rispetto a quello che lo sbaglia. Sì, ho capito, ma alla fine ci sono molte altre spiegazioni che hanno a che fare con la decisione umana, la decisione dei leader dei partiti, dei candidati, degli elettori, una quantità di cose che in qualche modo... E quindi da questo punto di vista io credo che il modello di Hempel e di Popper in realtà non elimina la libertà decisionale dell'uomo. La libertà decisionale dell'uomo è interna al processo. Il problema è, ma vogliamo ripensare che cos'è libertà? Libertà decisionale? La libertà viene spesso proposta come una sorta di fatto qualitativo. Sei libero o non sei libero? In realtà, nella realtà storica concreta, l'uomo non è mai completamente libero e non è mai completamente schiavo, determinato. Anche l'uomo nelle condizioni più disperate di repressione può avere dei margini, per quanto minimi o magari fugaci, per opporsi, per far qualcosa. Viceversa, anche nelle situazioni più favorevoli, l'uomo non ha un campo di azione illimitato, ha un certo numero di variabili fra cui scegliere. Allora, se tu lo vedi da questo punto di vista, lo vedi come un rapporto causa-effetto che in qualche modo è già delimita il campo delle possibilità, dopodiché la decisione umana indirizzerà il successivo processo in una direzione piuttosto che un'altra. Io non vedo una contraddizione fra il modello nomologico e il principio di libertà umana. Questo, per esempio, nel caso dei modelli di simulazione è importante, perché il nostro comune amico Lamberto risponde che niente fa, non si scappa al modello, è vero? In realtà non è così, un po' perché secondo me non hai a che fare con leggi ineccepibili, ma hai a che fare con leggi probabilistiche, nel migliore dei casi. Secondo luogo, perché se c'è un principio di libertà umana, per cui io non so se tua sorella farà un figlio, ma so quanti bambini nasceranno fra 3 anni, lo puoi dire solo probabilisticamente, non lo puoi dire con certezza. Perché in realtà non è scritto da nessuna parte che tutte le donne non decidano di fare come quella che non vuole far figli. Sono 10.000 ragioni di carattere culturale, di carattere magari un momento particolare che induce a timore, o forse un mutamento delle condizioni sessuali, o una serie di ragioni, o semplicemente perché c'è una certa casualità per cui un certo numero di donne è in condizioni per cui preferisce non far figli, e probabilmente fra 3 anni potremmo avere valori. Non è probabile che questo accada. Ci sono una tale quantità di condizioni che grosso modo dovrebbero cambiare un po' troppe cose tutte insieme, non è probabile, e quindi avremo più o meno un certo trend demografico. Poi tra l'altro soprattutto il trend demografico è una cosa che sul lungo periodo è abbastanza costante, e basta fare i confronti con... Però questo non ti dice se questo non si invertirà, non ti dice se questo non avrà eccezioni, non sei di fronte a leggi ineccepibili. Quindi D'altro canto, se l'azione umana fosse rilevante o fosse comunque già statisticamente prevedibile, beh, se l'azione umana fosse rilevante, possiamo anche sederci sulla riva del fiume, possibilmente con un panino, e tanto che fai e fai, come dice quel vecchio saggio yiddish ebraico, noi siamo polvere e torneremo in polvere, però nell'intervallo un bicchiere ce lo possiamo pure fare, cioè non è che... Quindi alla fine, se è questo, vabbè, che cazzo agiti a fare. Ma se anche statisticamente noi sapessimo con certezza che andrà in un certo modo, che cazzo fai a fare il modello? Tanto non puoi cambiare. In realtà il modello tu lo fai perché? Perché c'ha la domanda what if, cioè se fai questo avrai questi effetti, o ci aspettiamo che tu abbia questi effetti, se fai quest'altro avrai. Quindi questo significa che qualcuno può decidere di fare una cosa piuttosto che un'altra, ma come lo può decidere l'attore del modello? Pure gli altri lo possono decidere. Quindi alla fine esiste una pluralità di, per cui avrai soluzioni più probabili o meno probabili. Ma se l'attentatore, vedi la casualità, se l'attentatore delle due torri, mentre sta andando, viene fermato dalla polizia perché c'è uno davanti che lo ha tamponato, e quindi, e questo come cazzo fai a prevederlo? Quindi in realtà il modello esplicativo, che poi in realtà tanto i modelli di simulazione quanto i modelli, diciamo, i modelli di esplicazione storica sono lo stesso meccanismo, sono di tipo problema. Qual è il vantaggio? Il vantaggio rispetto a un approccio storicistico è il carattere fortemente analitico, che ti permette, non fosse altro, di precisare quali sono gli eventuali punti di senso. Poi magari Margherita ha certe sue convinzioni sulla economia che gli vengono al suo background culturale, cioè che non coincidono con le mie, e quindi noi ci azzufferemo sulla legge di copertura che io ho messo e che lei non condivide, però almeno sapremo, e alla fine a dar ragione a me o a Margherita chi sarà? Sarà lo sviluppo successivo dei fatti, cioè alla fine la storia rimane sempre una cosa, non ha carattere sperimentale, però passa necessariamente attraverso l'esperienza dell'uomo. E quindi questo in qualche modo, e allora in definitivo, spiegazione storica ha carattere logico, e per logica io intendo logica formale, non intendo solo logica naturale, perché solo logica formale, la formalizzazione del modello ti permette di evitare quelle serie di ambiguità, quelle serie di polisemie, quelle serie di scivolosità per cui non si capisce mai bene che cacchio stai dicendo. Ecco, le poesie di Vendola, per capirci. Però, ragazzi, il fatto è che si richiede un uso cum grano salis del modello nomologico inferenziale, che è una cosa che ha una sua notevole validità, ma che non va preso proprio tutto alla lettera, In qualche modo questo ha a che fare anche con la soggettività dello storico nel dosaggio dei dati che ha deciso di utilizzare, delle fonti, delle leggi di copertura, dei modelli esplicativi. Da questo punto di vista la scienza storica non ragiona in modo diverso dalle scienze naturali, ma non è e non sarà mai una scienza esatta. Poi vedremo la prossima volta come e qualmente la qualità della ricerca dipenda in gran parte dalla qualità della scrittura. Non è irrilevante se si scrive in un certo modo o in un altro, anche perché ricordatevi una cosa, in questo ha ragione Gadamer, l'uomo conosce nominando le cose, dandogli un nome, e quindi questo poi lo porta alla sua teoria ermeneutica della storia, eccetera. Ma nominare, per nominare bisogna non solo... La conoscenza umana è una conoscenza linguistica, è basata su questo. La conoscenza umana è linguaggio, la cultura è linguaggio. Quindi dalla tua capacità di usare il linguaggio non c'è soltanto la tua capacità di farti capire, ma anche la tua capacità di capire quello che stai dicendo. Se la qualità della scrittura non è quella che deve essere, vuol dire che in testa c'è idee che non sono quelle che devono essere. Questo poi ne parleremo la prossima volta, che poi mi direi tu quant'è. Vabbè, per mo' basta così. Ah, una domanda. Matteo, quant'è il rapporto PIL debito pubblico che l'Unione Europea ha stabilito? Quanto deve essere la soglia? Col fiscal compact. Sì. La soglia debito PIL. Sì. Quanto? 60. Sbagliato. Quando è stato, in che anno è stato ucciso, è stato eletto Kennedy? Non sa nessuno. 61. 59. Eletto. Sbagliato. Allora, Kennedy è stato eletto nel 1959 più 1 e il limite è il 59 del po- è, o anche il 70 meno 10. Morale, chiunque dica 60 stasera piglia mazzate. Per capirci. Andiamo avanti. No, era un avvertimento, un modo per spiegarvi come uno può esprimersi, no? Lo vedete quanto è importante il modo di esprimere il linguaggio? Avevo anche provato la nostra ignoranza. Quindi 80 meno 20, sarebbe voluto. Cretino. 50 più 10. Tre volte 18 più un terzo. Quindi non possiamo parlare di strategia dell'attenzione stasera. No. Vabbè, allora. No, ma noi riduciamo al 69-74. Abbiamo ancora 9 anni. Al 70 meno 1 volevi dire. A parte che la battaglia di Waterloo è stata 18 anni fa. Ecco, precisiamo questo concetto. Allora, gioventù, se siete sopravvissuti al caldo. Picchia, picchia. Una curiosità, la conosce la sentenza francese? Sì. La famosa sentenza delle Nazioni Unite francese nel 2002, qui spiega questo concetto che si è spiegato tu oggi. Quale? È la sentenza che praticamente modifica il concetto di nesso causale e introduce la copertura scientifica. Leggila, non... mandamela. Tramando, è molto interessante, tipo, secondo me ti piacerà. Vabbè, quelli i francesi, se per questo hanno questa vocazione scientista. No, sentenza francese, francese è il nome. Ah, avevo capito francese. No, francese è un medico, che era un processo su una coppa medica. No, pensavo, sai che stavo pensando? Alla sentenza che venne messa nel caso Forisson, credo. Un negazionista, e ci fu tutto un casino sulla perizia, eccetera, eccetera. Invece no, sulla sentenza caso francese, mamma mia. Tra l'altro sono tipo 7 pagine, breve. Proprio interessante su questa cosa che dici tu. E sviluppa questo metodo che dici tu. Cioè, da un lato il concetto della legge di copertura, dall'altro il concetto di analisi storica concreta, del fatto concreto, applicato chiaramente al diritto, però insomma. Che in effetti non è mai proprio così preciso. Cosa? Il fatto. Non è mai così applicato. C'è questo cazzo di fatto che. Allora, giovani. Perché strabuzzi gli occhi? No, non ce la può fare. Aspetta che mo inizia la cerimonia del collirio. Sì, di... sì, sì, sì, sì. Fine seduta, secondo me. Quanto manca per capire che cazzo è successo in Grecia? 10 minuti. Però Mentana ha dichiarato che avrebbe detto qualcosa prima. Attenzione. Attenzione. Il pendolo di sì, ma nessuno c'ha internet. Vabbè, i sondaggi sono quasi... No, erano combattuti. Vediamo se c'è qualche tweet. Vabbè, tecnologico. Prime indiscrezioni. Pro euro in testa. Cazzo vuol dire? Il blocco dei pro euro. Vabbè, ma non dice niente. No. Perché un conto è su una singola lista, un conto è se il blocco. Perché se è su una singola lista non si fa un cazzo, perché premio di maggioranza se lo becca Tsipras. Ragazzi, io detto fra di noi sono più contento se vince la destra. Ma secondo me? Perché governare... l'idea di andare a governare quel sorta di casino, cosa che come la fai la sbagli. Altro. No. La distanza sarà... Io ho temuto per l'uscita di quella cretina della Merkel. Grecia, De Bortoli questo. Ah. ND sfiorerebbe il 30%. Exit poll non ufficiale, distacco minimo sulla sinistra radicale. Vedi, stanno filo. Dice che il danno d'immagine si ripercuoterebbe poi in tutta Europa. L'ha detto la Merkel. Nell'eventuale gli errori della sinistra in Grecia. Diventa un disastro. Tu immagina se Tsipras è costretto a uscire dall'euro e succede un casino della Madonna a colpa della sinistra che ha fatto fallire l'euro, che fallisce per i cazzi suoi. Capisci? No. Non solo, ma poi se fai una foratura là, per 30 anni la sinistra non se ne parla più. Cioè, sinceramente, per 30 volte il gioco del cerino preferisco passarlo agli altri. Anche perché Tsipras poi, vabbè, vuole restare nell'euro, però non vuole l'austerità. Non vuoi, vabbè, figli miei, come ma fai? Mi sono letto il suo programma tradotto. Sì, no, ma con il blog di Kate Lerner. Tutto molto bello, Sì. Però voglio come? Cioè dice apriamo le scuole ai poveri, bellissimo. No, sapete che cosa c'è che mi lascia molto perplesso? Tsipras, Mélenchon, un pochino questo si può dire anche di quello della La Fontaine. Sono tanti Bertinotti, lo stesso approccio alla politica. Mélenchon che cazzo fa? Si va a candidare nel collegio di Marine Le Pen, no? Che lì ormai è radicata da anni, c'ha un reticolo di organizzazione, lui non c'ha un cazzo, ci va solo sulla sua immagine e i sondaggi dicono che sta per pigliare un bagno. Ma non lo so, vediamo dove va a finire. Però è l'idea la Bertinotti che poi alla fine quello che conta non è il partito, non è l'organizzazione, il lavoro quotidiano che fai, eccetera. Che cerchi? Non c'è, quello non è. C'è solo quello. Siamo condannati al decaffeinato intenso. Scusa, exit poll belga, ND 29,6, Siriza 27,9. Madonna. Beh, è uno stacco. Voglio vedere se non riescono a fare il governo manco mo. Il problema è quello. È previsto? O previsto? Si fanno. Tanto ormai votano in 2 settimane. Certo. Vanno in default solo per i costi di sì, praticamente le elezioni. Cioè, capito? Anche Tsipras, sì, tanto simpatico il ragazzino, ma mi fa l'impressione di un altro Bertinotti, di un altro che spara cazzate. Anche La Fontaine, e infatti guardate che sì, ci sono dei momenti in cui questa sinistra riesce ad avere dei successi, però non riesce a catturare la protesta. In Francia la Marine Le Pen ha fatto il culo così alla sinistra, in Germania i Piraten, in Italia Grillo, in Grecia per mo sta questo, poi vedremo. Cioè la protesta va verso altre direzioni, perché questo tipo di organizzazione di sinistra o sono cose fossili come il Partito Comunista Portoghese, al cui confronto i comunisti italiani sono una balera, una cosa, o sono cazzari in libertà come Vendola, Bertinotti. Però hai capito, a quel punto cazzaro per cazzaro vince il populista di destra, che è più capace di demagogia, anche perché questi sono tutti quanti fighetti, sono tutti signori con la posta, quindi come Masaniello, Bertinotti, come minimo non devi mettere il Kashmir. Beh, torniamo alle cose nostre, visto che... Ma io quello che volevo chiedere è, tornando al discorso storicismo e illuminismo, che idea ha l'illuminismo della storia però allora? Perché c'è tutto il discorso del progresso, del... L'illuminismo si limita ad avere un'idea che in qualche modo... Il problema è i problemi storiografici che hai. L'illuminismo ha quale problema? Di far fuori la sacralità del potere. Allora, quello che viene fuori è per esempio l'operazione che fa... Gabriel, ah, la Madonna che buchi nella memoria, De Mably, che fa una comparazione delle vere e proprie comparazioni dei modelli costituzionali europei per dimostrare che è una cazzata questa cosa del potere che discende da Dio. La storiografia illuminista ha il problema del nemico potere, della nemica monarchia, quindi e della nemica chiesa, quindi la ridicolizzazione, se vuoi, della storia sacra. Se leggi il dizionario filosofico di Voltaire è spassosissimo nella presa per culo dei miti biblici, eccetera. È questo, ma per il resto c'è molto della mitologia classica. Infatti la Rivoluzione francese è tutta costruita su miti della romanità. Napoleone, sia gli altri vengono acclamati consoli della Repubblica, perché c'era la Rivoluzione francese, sceglie come suo simbolo il fascio littorio prima di qualche altro, però non ci mette la scure. La Rivoluzione francese ha il fascio senza la scure, quella è una dolce, perché quando il fascio entrava nella polis veniva disarmato, veniva tolta la scure, non poteva entrare con la scure nella polis. Quindi il tipo di idee che avevano loro erano molto legate a questo contesto, l'idea del recupero della virtù repubblicana, era questa l'idea. Il resto, lì se vuoi inizia l'idea del Medioevo come periodo di regressione. Lì inizia a maturare l'idea del Medioevo come secoli bui, brutta roba. Un pochino già c'era stato, però per il resto non è che si pongano granché. D'altronde grandissime opere, al massimo chi c'hai per esempio i martinisti, ma che sono un pezzo interno alla Chiesa. Loro teorizzano che la Chiesa non debba aver paura della storia fatta con metodi laici, diciamo filologici, perché siccome la verità è sicuramente dalla parte nostra, allora perché abbiamo paura? C'è qualche ingenuità di questo tipo? Non è che abbia grandissimi vertici in quel periodo. In quel momento il problema è quello, appunto, la storia, la storiografia interroga il passato per quello che serve sul momento, non è... Che poi invece una delle cose, penso a questo punto a settembre, che faremo è problema, se lo storico serio è quello che rappresenta la sua epoca, che interroga il passato, il primo problema è capire cos'è la critica storica della nostra epoca, perché se non capisci quello non sai nemmeno che storia scrivere, che è uno dei motivi per cui torno a dire tutta una certa storiografia ormai è solo di peso. Intendi cosa? Crociani. Ma tante cose, beh vabbè, Crociani non dipende dalla nascita, cioè quello, Croce è nato un secolo e mezzo in ritardo, quello è uno dei casi in cui la gestazione è durata troppo. E, no, ma penso per esempio anche a un certo modo di fare storie dei partiti, a parte vabbè, il classico opprimente ciclo fascismo, resistenza, antifascismo, Shoah, seconda guerra mondiale, che ormai è diventato un chiummo che va in libreria e la metà dei libri è su quello. Vabbè. Ma anche altre cose, pensa per esempio al come non è stato capito per niente il 150esimo dell'Unità d'Italia. Molte cose celebrative, delle cose spiritose. Libri belli c'è stato quello di Vergano, se non sbaglio, su Cavour, qualche altra cosetta, ma nel complesso c'è stata una ripetizione di cose dette abbondantemente, eccetera, ma non c'è stato il tentativo di un minimo di bilancio di che cosa ha significato 150 anni di unità nazionale, della perdita del senso di appartenenza nazionale degli italiani, il rapporto con l'unità europea, con la globalizzazione, il discorso della fine della sovranità degli stati nazionali, cioè c'era tutto un complesso di problemi storiografici che potevi usare, cioè un cazzo, cioè è proprio tutto un modo di fare storia molto ripetitivo, cioè qui non si è capito che la globalizzazione cambia completamente le regole, per esempio proprio se vai a leggere gli storicisti eccetera, però vedi che anche in fondo lo stesso Popper o Hempel ti fanno il discorso sul linguaggio, che in fondo lo storico non è mai altro dall'oggetto che studia, perché in realtà anche se si tratta di una cosa remota, ma le generazioni precedenti attraverso la lingua lo condizionano, perché la lingua c'ha dentro una serie di significati, di cose eccetera, di cui tu magari non sei perfettamente consapevole, però comunque ecco, io voglio vedere quanto questa cosa regge se parliamo di storia cinese, cioè quanto nella tua esperienza, nel tuo modo di essere, nella tua cultura eccetera eccetera ci sia della storia della millenaria della Cina e viceversa, ma loro forse erano un po' più di me. Non credo che questo argomento regga molto, se perché quello andava bene fino a quando tu pensavi a un contesto europeo, la storia europea, vabbè, anche francesi, tedeschi, ok, su, euroamericano. Ma se cominci a pensare a contesti così radicalmente distanti, eccetera, questo argomento scompare. Sì, è vero che il linguaggio è un'esperienza umana comune a tutti, ma le lingue sono molto diverse. E la lingua cinese, che poi il bello è questo, che se la metti sul piano dell'eredità comune, eccetera, eccetera, allora lo storico non è altro dall'oggetto che studia e quindi quanto tale una conoscenza imperfetta. Se invece quegli altri sono così proprio radicalmente diversi, allora non sono conoscibili. E quindi in ogni caso non si capisce bene che cazzo ci facciamo. La verità è che i cinesi non sono marziani, però non puoi fare il discorso. Allora, se non capisci che per esempio la comparazione internazionale di modelli di civiltà, cioè, è uno dei campi su cui devi zappare, perché altrimenti tu non capirai niente del tuo modello di modernizzazione, che poi è la lezione che abbiamo fatto con Alberto, su cui io sono stato molto morbido e rispettoso, perché vabbè, il caso l'ho invitato io. La nostra idea di modernizzazione è completamente nuda di fronte all'esperienza degli altri, per cui cioè noi abbiamo in testa un modello di modernizzazione intanto perché abbiamo razionalizzato ex post una serie di fenomeni, ma noi abbiamo colto una cosa, che la nostra storia ha caratteristiche di compattezza territoriale, temporale e razio-materie che non hanno altri popoli. Da noi lo stacco che c'è fra l'urbanizzazione, la rivoluzione industriale, lo stato burocratico moderno, la democrazia rappresentativa, la secolarizzazione, è un percorso che in 3 secoli e mezzo si fa, 3-4. In Cina l'urbanizzazione, certo non le megalopoli moderne, ma comunque l'urbanizzazione ce l'hanno avuta sempre. Lo sviluppo tecnologico ce lo hanno avuto intenso fino al 400, poi sono fermati, hanno avuto un periodo di decadenza. La secolarizzazione per certi versi ce l'hanno avuta sempre, perché Confucio ha i suoi livelli di laicità da allora, per altri versi non ce l'hanno ancora, perché ancora c'è un'idea un po' di mandato divino e così via. Quindi è comunque, diciamo, per arrivare alla Cina repubblicana devi arrivare al 19 praticamente, tra l'11 e il 19 i vari movimenti, ma quindi hai un qualcosa di molto più disomogeneo e frammentario nel tempo, nello spazio, eccetera, per cui molte cose che a noi sono sembrate messi necessari. Ecco, leggi di copertura per cui l'industrializzazione avrebbe prodotto movimenti rivendicativi salariali e per cui poi la democrazia, la cosa, eccetera, eccetera. Non è così là. E quindi evidentemente non è necessario. Ecco come ti arriva la falsificazione. Allora, ecco, il tipo di storia che credo si debba studiare è cambiato completamente come asse, come orientamento, anche la nostra storia recente. Non c'è una storia degna di questo nome del welfare. Altro che mi rompi i coglioni sulla Shoah, mi sono scassato il cazzo, no, basta. Parliamo del welfare, parliamo del processo di unità europea, perché è fallito. Visto che continuiamo a dirci che la dobbiamo fare l'Europa, ma lo dirà Valet che è fallito. È proprio questi arrivanti disoccupati. Integrazione. E di cosa vivo io adesso? Dell'Inghilterra. Scrive dei fantastici libri sull'Ira. Sull'Ira? Sull'Ira. Dove lui spiega che le cose sono violenti. Certo. Non sono messi d'accordo a tavolino. Io me ne devo andare, non c'è un lì. No. Ma tra un po' anche noi arriviamo alla cucina, non so mangiare. Quindi tu manchi alla cena. Non ce l'avevo tutti i tipici campani. La cena degli 80 meno 20. Mamma mia. Che cosa c'è da me? Dove vai? 50 più 20. Per giorno che mi ha detto per l'Europa io me ne vado. Quindi stasera. Ma tanto la casa sul computer. Vabbè, adesso sta seguendo. Chi zero? Zero sarà. Vabbè, zero. Il libro è bravo. Basta sì. Sta aggiornando in temporale sugli ex. Vabbè, ma scrivigli, non me ne frega un cazzo. Margherita, ci vediamo grido. Portagli tutta la mia solidarietà. E hanno rubato quello fucile dal commissariato dell'isola di Corfu.